calano lenti dal nord e dall'oriente al ponte tremolante della via dei Franchi. Negli occhi Roma eterna, urbe, puttana e santa. Urbe, puttana e santa. In summa quoque Bardoni Salpe, in loco qui dicitur pons tremolans. Passa il tempo come acqua sotto il ponte, un'alluvione di tanto in tanto, un'alluvione di tanto in tanto. Ma il ponte è stabile, io tremolante. Viadotti e gallerie dalle pendici del monte, traffico intenso sulla Parma Mare a 15, code a tratte dal sole. Code a tratte dal sole. Negli occhi un litorale, un'altra estate al mare, un altro anno d'amore. Parole al sapore di mela, il sale sulle tracce d'arsura in gola. Passa il tempo come acqua sotto il ponte, un'alluvione di tanto in tanto, un'alluvione di tanto in tanto, ma il ponte è stabile, io tremolante.